negozi si dopo e non con niente, che se ne dopo dopo. E chi va, arriva, arriva, arriva, venga a va, venga a man, va, dite che para. E quel no cante uno, e quel no cante a nessun antiguo, e quel di como, tan criando, voy a ver, no, manca a man, tío. ¡Crupo! O come viene a macuá, y ya futuro. ¡Quítalo, por favor!